Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, Bemus manovra, abbiamo la manovra, da quello che si è saputo circa mezz'ora fa. I dettagli sono usciti dopo il Consiglio e il Vertice Palazzo Grazioli, adesso il Consiglio dei Ministri. Da quello che si è capito, il governo metterà la fiducia. Ce ne occuperemo con maggiori aggiornamenti dopo le 18, anche perché è rispuntata l'IVA all'1%, si ritorna alla giornata di età pensionabile e tassa di solidarietà per quello che riguarda i redditi, però questa volta ancora più alti, cioè sopra i 500.000 euro il contributo del 3%. Adesso magari cercheremo anche di capire quali sono i redditi sopra i 500.000 euro dichiarati, perché quelli sopra i 90.000 erano all'87% di lavoratori dipendenti pensionati. Vedremo comunque il dato complessivo, temo che siano poche migliaia gli italiani che dichiarino, non quelli che li guadagnano, ma quelli che dichiarano più di 500.000 euro di reddito. Ancora, per quello che ha a che fare con l'IVA, si andrebbe verso un aumento dal 20 al 21%. E ancora, in Consiglio dei Ministri giovedì dovrebbe arrivare la legge costituzionale per bloccare, eliminare le province. Queste le novità intercorse circa mezz'ora fa. Come hanno reagito le borse? Non hanno reagito, nel senso che Milano, che perdeva il 2%, continua a perdere il 2%, anzi stava correggendo prima dell'annuncio, adesso è tornata a perdere. Comunque Milano perde, stava correggendo intorno allo 0,8% di calo, adesso è tornata sopra il 2%, meno 2,12, e sostanzialmente in Europa è la peggiore, nel senso che Parigi perde l'1,40, Francoforte l'1,15, Londra guadagna lo 0,46, l'America ha aperto in netto calo, ieri era chiusa per festività, meno 2,15%. C'è poi l'euro che è sotto quota 1,40, 1,39,90, e ne parleremo, lo racconteremo di questo accordo, o meglio questa decisione svizzera di bloccare il rapporto di cambio. Cosa stava succedendo? Beh, l'indebolimento dell'euro, che è molto forte ancora nei confronti del dollaro, ma è molto debole con altre valute, aveva fatto portare il franco svizzero a un livello da record, e quindi la Svizzera ha fissato un valore minimo per il cambio euro-franco a 1,20 e ha detto che dopodiché interverrà con la massima determinazione, quindi immaginiamo comprando euro e vendendo franchi, per evitare un eccessivo apprezzamento del franco svizzero. La Banca Centrale Europea ne ha preso atto, un comunicato molto laconico. Poi di nuovo questa mattina, nel corso della giornata, dichiarazioni Wall Street Journal, Financial Times e altri osservatori europei sulla manovra italiana, tutte dichiarazioni che però sono arrivate prima dell'annuncio che la manovra ha conosciuto una nuova modifica, ma dovrebbe essere quella definitiva se, come sembra, il governo alla fine porrà la fiducia. Su Italia la politica non ci sono, non abbiamo letto nulla. I mercati, visto che ce lo chiedete già, al di là dell'indice, vedono di nuovo un forte calo su Fiat, nel senso che Exor, la controllante, perde il 6,20%, Fiat Industrial, quindi camion e trattori, meno 5,40%, Fiat Auto meno 4,45%. Dopo Fiat va molto male oggi Unicredit, meno 4,60, ormai è scesa anche sotto 80 centesimi di euro per azione, a 79 centesimi. La Popolare di Milano meno 4,20, ST Microelectronics meno 4,15, Generali meno 4, Fondiaria meno 3,90, Intesa meno 3,60, UbiBanca meno 3,5, Prismian meno 3,30% e Telecom meno 3% come Mediolanum, in pregiro perde il 2,90%. C'è qualche titolo positivo oggi: Parmalat più 2%, Luxottica più 1,5%, Enel più 0,70%, Diasorin più 0,22%. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve. Non male la battuta di un ascoltatore che dice solo Windows ha avuto più versioni di questa manovra. In effetti le versioni non sono mancate, vediamo se questa sarà l'ultima, ne ragioniamo più avanti, un po' di pazienza. Ancora sui mercati, al di là del mercato azionario, oggi l'oro ha fatto un nuovo record a 1921 dollari l'oncia, e questo è frutto dell'incertezza sulla reale tenuta dell'economia americana in primo luogo, ma non solo. Tra l'altro ormai molti analisti vedono l'oro a 2000 dollari l'oncia come prospettiva assolutamente probabile. Il petrolio si mantiene invece stabilmente sotto i 90 dollari al barile, siamo a 83,70 dollari oggi a New York, nel giorno in cui il premier russo Vladimir Putin ha avviato il nuovo gasdotto Nord Stream che collega Russia e Germania sotto il Mar Baltico. Ha praticamente Putin iniettato il primo gas tecnico con l'aiuto di un computer a Viborg, nella regione di San Pietroburgo. Era presente anche l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che attualmente è presidente del consorzio Nord Stream. Praticamente il volume del gas fornito, ha spiegato Putin, è paragonabile all'energia di 11 centrali nucleari. Sono 1224 km di gasdotto con 55 miliardi di metri cubi di gas l'anno. E in questo modo la Russia potrà rifornire di gas l'Europa, bypassando, quindi saltando, alcuni paesi con cui ha relazioni difficili, tra cui la Bielorussia e l'Ucraina. Questa mattina i cali di borsa non avevano risparmiato nemmeno Tokyo, meno 2,21%. Tokyo, la borsa giapponese, è ai minimi dall'aprile del 2009 e sta prendendo forma la creazione di un'agenzia di rating, un'agenzia di voto sovranazionale che punterebbe a ridurre la dipendenza dalle Big Three, cioè da Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Come anticipato dall'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, infatti, un ruolo chiave in questa agenzia sovranazionale dovrebbe essere attribuito dall'agenzia cinese Dagong, che tra l'altro si avvale anche della consulenza dell'ex premier italiano Romano Prodi e di altre figure politiche internazionali. Lo ha scritto oggi il China Daily, aggiungendo che della nuova agenzia di rating entreranno a far parte società europee, statunitensi e anche dei cosiddetti BRICS, quindi Brasile, Russia, India e Cina. Di Wall Street volete sapere, ripeto, meno 2,1%. La cosa interessante al ritorno dal ponte della festività del Labor Day in America, non si era mai avuto un peggiore inizio di settembre dal 1974 per Wall Street, a chi piacciono le statistiche. E per chi piacciono le statistiche questo potrà essere importante. Un dato invece positivo dall'America è arrivato sull'indice ISM dei servizi, salito a 53 punti, ma l'Europa ha confermato invece la frenata sulla crescita economica che si è registrata nel secondo trimestre, dove l'area euro è cresciuta solo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, e ciò nonostante però Eurostat ha confermato le stime diffuse lo scorso 16 agosto. Tant'è che dal secondo trimestre 2011 al secondo trimestre 2010 la crescita è stata dell'1,6%. E pesano anche i dati tedeschi. Oggi viene confermato un rallentamento della Germania dagli ordinativi al settore manifatturiero. A luglio sono scesi più del previsto, meno 2,8% contro un meno 1% inizialmente stimato. Sì, tra i BRICS, giustamente dice un ascoltatore, c'è anche Sudafrica, avete ragione. E continuiamo con la cronaca della giornata, perché già ieri ricordavamo e facevamo notare come stia crescendo tantissimo il numero di depositi, il valore dei depositi che le banche fanno, i cosiddetti depositi overnight, ossia le banche preferiscono depositare i soldi nei depositi overnight presso la Banca Centrale Europea piuttosto che investirli. Questo è sintomo, segnale della forte incertezza che hanno le stesse banche europee nel decidere dove dirigere i propri investimenti. Pensate che siamo ai massimi del 2011, 166,848 miliardi di euro depositati overnight ieri presso la Banca Centrale Europea. Preferiscono depositare questa liquidità alle banche pur avendo un rendimento bassissimo, lo 0,75%, per pur di, diciamo, investirli sul mercato o su altre forme di prestito. Allora, qualcuno vuole che parliamo dell'articolo 8, racconteremo oggi lo sciopero. Ne abbiamo parlato ieri con un giuslavorista, i rischi che che la contrattazione aziendale possa superare non solo quella nazionale ma anche la legge ordinaria, e i rischi che possono portare soprattutto tra le migliaia di piccole imprese di una specie di giungla contrattuale. L'abbiamo evidenziato ieri, oggi obiettivamente non torniamo sul tema. Adesso veniamo un po' di polemiche contro l'Italia. Allora, io dico una cosa, va benissimo che la Germania ci critichi, abbiamo fornito molti elementi nella gestione di questa manovra e mi riferisco a come è iniziata a luglio la prima manovra, poi si è dovuta rifarla e aggiungere un'altra ad agosto, poi si è annacquati, i mercati ci hanno punito, perfetto, però un conto è essere criticati dalla Germania, un conto è essere criticati dalla Commissione Europea. Che la critica arrivi dal portavoce del governo di Madrid, José Blanco, dicendo che il governo spagnolo è molto preoccupato a causa di quei paesi, tra cui Grecia e Italia, che non centrano i propri obiettivi di riduzione del deficit, alimentando un periodo di turbolenza nel mondo, ci sembra veramente troppo, nel senso che la Spagna, per carità, ma ha degli spread praticamente simili all'Italia, l'abbiamo leggermente superata noi come differenza tra quanto rende il BTP, il Bund tedesco, e l'equivalente spagnolo o italiano. Anche sui CDS l'abbiamo superata, ma fino a giugno era la Spagna ad essere più a rischio di noi. Un paese con i problemi che ha, sicuramente, come ricordavamo ieri, può vantare il fatto che Zapatero non si ricandiderà, che andrà a elezioni subito, che hanno fatto una manovra con l'opposizione, però adesso a ricevere anche i giudizi da un paese come la Spagna sembra obiettivamente eccessivo. Più che i giudizi, le critiche da un paese come la Spagna sembra oggettivamente eccessivo. E invece non mancano le critiche del Financial Times. La manovra correttiva dei conti pubblici italiani è un fiasco fiscale, è stata annacquata a tal punto da rappresentare un gioco di prestigio e probabilmente danneggerà l'economia italiana piuttosto che accelerare la crescita. Continua il Financial Times, è l'Italia, non la Spagna, che deciderà il destino dell'area euro, e secondo il Financial Times un sistema politico incompetente ha lasciato il paese paralizzato davanti alla brutale correzione del rischio percepito dagli investitori sempre più nervosi. Non le manda dire il Financial Times. E anche il Wall Street Journal oggi torna all'attacco, dice: Atene e Roma tengono in ostaggio l'Europa. Se la Banca Centrale Europea dovesse interrompere gli acquisti di obbligazioni italiane, il conseguente balzo dei rendimenti potrebbe far cadere l'amministrazione Berlusconi aprendo la strada ad un governo tecnico nominato dal presidente Napolitano. E praticamente paragona l'Italia alla Grecia, perché dice nel Wall Street Journal: la Grecia ha imparato che ogni volta che la crisi minaccia l'area euro, l'Europa è costretta a rimangiarsi le promesse fatte e a soccorrerla. Ora l'Italia sembra fare lo stesso calcolo, con ministri che mostrano di non tenere in alcuna considerazione l'urgenza di riforme strutturali e invece parlano incessantemente degli eurobond come soluzione alle disgrazie che attribuiscono a forze esterne. E qui il riferimento era anche al ministro Tremonti da parte del Wall Street Journal. Bene, questi articoli erano usciti prima che venisse annunciata la nuova versione della manovra. Da qui partiamo, poi ascolteremo anche alcune reazioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Ripeto, visto che se lo chiedete, da quello che si è capito, da quello che è uscito dall'incontro a Palazzo Grazioli, poi alle 18 c'è il Consiglio dei Ministri, si va a un aumento dell'IVA dal 20 al 21%, adeguamento della pensione delle donne dal 2014 nel settore privato, in quello pubblico già stato fatto, e giovedì in Consiglio dei Ministri andrà anche la legge costituzionale per bloccare le province, infine arriva il contributo del 3% sopra i 500.000 euro di reddito. Per quello che riguarda l'articolo 8, quello contestato dai sindacati e soprattutto dalla CGIL, perché rende più forte l'accordo tra le rappresentanze sindacali dentro un'azienda e rispetto anche alla legge nazionale, Sacconi ha detto togliere l'articolo 8 non se ne parla. Come vanno gli spread, volete sapere? Allora, sopra i 350 punti, quindi meglio di ieri ma non bene. La Spagna 328, lo spread è la differenza tra quanto costa l'Italia trovare finanziatori per il suo debito offrendo rendimenti e quanto costa la Germania. Dicevo, il Portogallo è 890, quindi due volte, più di due volte l'Italia. L'Irlanda è a 678 e la Grecia a 1760, appunto la Spagna a 328. Il record vero e proprio si è avuto a 416 punti lo scorso 5 agosto, E tra l'altro le banche centrali dell'area euro starebbero anche oggi acquistando BTP italiani. Questo avrebbe permesso di far scendere lo spread sotto i 370 punti. Questo è arrivata come indicazione anche dalla Banca Centrale Europea. E domani il nostro tesoro, il nostro Ministero del Tesoro effettuerà un'operazione di riacquisto di titoli di Stato per 1.400.000.000 di euro. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Giacomo Vacciago, economista, insegna all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo la nuova versione della manovra che in sostanza torna ad aumentare l'IVA, dovrebbe tornare ad aumentare l'IVA e quant'altro. Però al di là della manovra in sé, se vuole commentarla si può unire a una lunga lista di persone. Lei era al workshop Ambrosetti a Cernobbio questo fine settimana. Ha avuto la sensazione che il problema sia, diciamo, principalmente italiano o che vi sia una richiesta forte? Abbiamo visto cosa è successo alla Merkel nell'ultima elezione amministrativa, una richiesta forte di politica, di governo di questa economia, e invece dopo due anni tutti i paesi, in particolar modo l'Italia, ma tutti i paesi si ritrovano al punto di partenza. Beh, attenzione, io ho partecipato a una sessione con i giovani di Cernobbio, dove eravamo la ministra Elena Salgado e io a parlare dei rispettivi paesi. Lei ha parlato, la Salgado, di un governo dimissionario, ma ha parlato con orgoglio di cosa sta facendo la Spagna per venire incontro in modo serio alle richieste dei mercati, e con grande stima di quello che i mercati dicono e con grande orgoglio del grande paese che la Spagna è. Purtroppo ho sentito il nostro ministro dell'economia che ha fatto esattamente il contrario. Non ha né parlato con orgoglio del suo paese, né tantomeno detto che dal punto di vista del governo italiano le legittime richieste dei nostri creditori, tali sono i mercati finanziari internazionali, ovviamente sono ben presenti al governo. Ha accampato scuse, in quattro giorni si fanno errori, ne ha avuti 400 di giorni a disposizione da quando la crisi è diventata crisi euro e da quando l'Italia insieme all'Irlanda stava nell'elenco dei maiali, pigs in inglese. Se devo confrontare quello che ho sentito del ministro spagnolo, una gentile signora molto determinata e molto compresa degli interessi di lungo periodo del suo paese, e quello che ho sentito dal nostro ministro, che parlava d'altro sostanzialmente, non c'è dubbio che poi in Germania si pensi che oramai la Spagna va per i fatti suoi, chi è ancora nei guai siamo noi. Sì, io continuo a pensare che, insomma, la critica arrivata oggi dal portavoce del governo spagnolo all'Italia, che siamo noi il problema con la Grecia, è un po' insomma, viene un po' da dire, professor Vacciago, da che pulpito? Non è che parlavo di oggi, parlavo dei giorni scorsi e di quello che 200 persone hanno sentito, perché il confronto Salgado Tremonti è avvenuto in pubblico, non è avvenuto in privato. Ma tra l'altro oggi c'è un editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, molto esplicito su questo, che dice, insomma, ho ascoltato il ministro Tremonti parlare di tante cose, di Deauville, Versailles, di riferimenti storici, ma insomma le attesano anche per una risposta a quella platea assolutamente qualificata e anche che ha un certo peso poi nel creare l'opinione sull'Italia, una risposta e risposte più concrete sui dubbi, che in questo momento sono dubbi sulla affidabilità del nostro paese, non diciamo sui fondamentali economici del nostro paese. Ma mi dico una cosa, io ho avuto la sensazione che paradossalmente le banche centrali, a partire dalla Banca Centrale Europea, ma anche la Federal Reserve, che storicamente dovrebbero essere le istituzioni più conservative del mondo, no? Il banchiere centrale è quello che proprio sta attento all'inflazione, che non si crei troppa liquidità, vive di conservazione. Ebbene, da lì stanno arrivando delle iniziative più, tra virgolette, rivoluzionarie. Cioè, se 2 anni fa qualcuno avesse chiesto alla Banca Centrale Europea di comprare debito italiano, si sarebbero messi a ridere. Però più rivoluzionaria che non dai singoli governi, o sbaglio? Beh, questa è gente che non dorme la notte. Oramai sui mercati globali il banchiere centrale dorme a turno, perché tu hai sempre un mercato aperto nelle 24 ore. E qualcuno di recente ricordava che Bernanke si portava una brandina alla Fed perché doveva stare sveglio quando apriva l'Europa, cioè il mattino che è tarda notte a Washington. Allora, questi banchieri centrali sono animali incredibili, perché hanno capito che il mondo è pieno di opportunità, ma è anche pieno di problemi. Loro sono centrali solo se fanno squadra, se no sono banchieri locali. E quindi c'è un forte senso di cooperazione, ce l'avessero i governi. La Merkel ha insultato l'Italia ieri, ma una volta queste cose non succedevano. E questo è il grave, che i governi sono l'uno contro l'altro armato, i banchieri centrali no, e alla fine i cittadini sperano che i banchieri centrali ci governino, cosa che è assolutamente fuori dal mondo, ovviamente per fortuna, però attenzione che in questo momento i Trichet, i Bernanke, i Mervyn King hanno una reputazione maggiore a quella dei loro primi ministri. Sì, lei dice, perché da lì arrivano più risposte. Una nota però, Vacciago, giustissimo la sua analisi sulla finanziaria italiana, sul ministro Tremonti che è apparso indebolito nella sua gestione di questa, nella gestione di questa finanziaria. Devo anche dire però che Angela Merkel non ne sta azzeccando una. Adesso io non voglio giocare al mal comune mezzo gaudio, perché poi ogni paese si becca i suoi problemi, i suoi spread e i suoi livelli di CDS. E a mio avviso comunque la Spagna, con la disoccupazione che ha, col problema che ha sulle casse provinciali e regionali e con un sistema produttivo sicuramente meno solido, prima di criticare l'Italia qualcuno si ricorda del buco dell'asino, però dico, il fallimento politico mi sembra italiano, per carità, ma anche europeo. Cioè Angela Merkel ha preso 82 posizioni diverse sul salvataggio della Grecia e poi dell'Irlanda e poi del Portogallo dal marzo del 2010 ad oggi, o no? No, non credo di avere parlato bene della Merkel, al contrario. Attenzione, oggi se si vota non c'è un governo che resta in vita, al mondo. Li abbiamo appena cambiati in Giappone, li abbiamo cambiati in Irlanda, in Portogallo, lo cambieremo in Spagna. In questo momento la governabilità e l'immagine dei governanti è bassissima. È alta anche in Italia quella del capo dello Stato, ma perché non è lì eletto dai cittadini e a rispondere in senso stretto della politica quotidiana. In generale, in 190 paesi al mondo, i governi in questo momento sono tutti in difficoltà. Detto ciò, è chiaro che poi in Europa l'asse franco-tedesco è il motore storicamente dell'integrazione e quello è quello che è più mancato. E se Germania e Francia si incontrano per fare prediche all'Italia, oltre che tempo perso, è anche chiaramente un andare indietro invece che un andare avanti, facciano qualcosa di più loro. Beh, in conclusione, perché agli economisti viene chiesto anche di dare qualche soluzione ogni tanto, ma secondo lei perché c'è questa incapacità della politica di prendere, tra virgolette, il toro per le corna, cioè di dire adesso basta, facciamo un nuovo accordo, dei nuovi regolamenti nel caso europei, diamo una linea chiara, facciamo un vertice di 2 giorni, però ne usciamo non con delle dichiarazioni sempre frutto di compromessi? Cioè, perché c'è questa incapacità della politica di fare anche scelte tra virgolette rivoluzionarie, visto che la situazione è rivoluzionaria, cioè è nuova rispetto a quelle passate? Prego. Perché la politica imita i mercati, è priva di lungimiranza. Se nella misura in cui si ragiona, e noi da quel punto di vista siamo il peggio, al di là dei contenuti, quello che conta è arrivare a lunedì, ma se quello che conta è arrivare a lunedì, tu sei inutile, a lunedì ci pensiamo già noi. Attenzione, bisogna tornare a ragionare in termini di lungo periodo e di lungimiranza. Quando vi dicono la manovra, anche da un punto di vista lessicale, è un errore. Io volevo che si parlasse di risanamento. Questo vuol dire non ci pensiamo più. La manovra è la penultima ogni volta. Infatti già adesso qualcuno ha iniziato a dire e poi fra 10 giorni faremo un'altra manovra. Addio. Allora siamo alla manovra settimanale. Peggio di così non si potrebbe fare. La politica deve occuparsi dei miei figli e dei miei nipoti. Al mio quotidiano basto da solo. Quindi non ha l'idea che ci sia una politica che troppo segue anche, come noi abbiamo avuto l'impressione, non solo in Italia, il consenso momentaneo, il consenso settimana per settimana, il sondaggio, diciamolo tutto. Cioè è difficile fare riforme durature e storiche guardando i sondaggi. Esatto, questo è il limite, ma è il limite anche della Merkel. Quando anno fa seppi che quest'anno si votava 7 volte in Germania, elezioni locali, ce n'è ancora una da fare, ce n'è appena stata una e così via, io mi misi le mani nei capelli. Se Berlino deve star dietro a 7 elezioni nei Land, chiaramente Berlino ha un orizzonte di 1 mese e mezzo, che è quello che abbiamo visto. Sì, che purtroppo è quello che stiamo vedendo. Grazie Giacomo Vaciago, editorialista del Sole 24 Ore, docente della Cattolica di Milano. Salve a tutti. Allora, alcuni chiedono perché Vaciago continuasse a sorridere, non lo so, sarà il suo modo di esprimersi, non è questo che mi interessa, mi interessano i contenuti. Anche lei, Barisoni, è un cerchiobottista, che delusione, oh, che tristezza, no? Cerchiobottista non lo so, io continuerei a tenere separati i casi italiani dai casi europei che ci accomunano l'Europa e poi anche dai casi mondiali, sono 3 livelli, c'è il livello nostro, c'è un livello europeo, in cui l'Italia entra perché è ritenuta in questo momento l'anello debole dell'Europa, al di là di Grecia e Irlanda, che lo sono ormai già da un anno, e poi c'è un livello internazionale in cui obiettivamente le preoccupazioni forti sono sulla possibile non crescita degli Stati Uniti e addirittura il rischio di una double dip, di una seconda recessione. E ancora rispondo, non stiamo criticando la Merkel e Zapatero e difendendo il governo italiano, io non so se delle volte c'è proprio un problema di comunicazione, nessuno ha mai difeso questa manovra, che voglio dire, nella sua comunicazione quantomeno, poi vedremo nei suoi effetti, ma nella sua comunicazione è indifendibile, è cambiata 5 volte in 5 giorni, per cui nessuno sta difendendo questo, abbiamo solo detto che da un lato la Spagna, prima di fare critica all'Italia, visto che fino a giugno era lei l'anello debole dopo il Portogallo, no, ogni tanto uno potrebbe pensarci, e che la Merkel obiettivamente ha avuto un atteggiamento nei confronti dell'euro e della disponibilità tedesca che è stato un pendolo, un giorno era contro il salvataggio della Grecia, poi le toccava farlo perché le banche tedesche erano esposte verso la Grecia, anche quelle francesi, e la stessa cosa sull'uso della Banca Centrale Europea per acquistare titoli di Stato italiani e spagnoli, prima era contraria e poi l'ha accettata, molto pendolo, tutto qua. Meteo, pubblicità e poi mercati, la decisione svizzera di bloccare il rapporto di cambio euro-franco-svizzero sotto una certa soglia e gli altri temi di questa puntata, 349-238-6666 per i vostri sms. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa adesso, la borsa di Milano ha chiuso in calo, meno 2%, Parigi meno 1,1%, Francoforte meno 1%, Londra più 0,94%, l'America meno 2%, quindi Milano resta e si conferma la peggiore, un calo quasi doppio rispetto a Parigi e Francoforte. Si salvano Luxottica più 2%, Parmalat più 1,5%, Enel Green Power più 1,1%, Atlantia più 0,70, Tenaris più 0,60 come Diasorin. Chi va male? Oltre al gruppo Fiat di cui adesso ci occupiamo, vanno male anche Unicredit, meno 4,45, sotto gli 80 centesimi di euro per azione, a 79 centesimi e 5, Monte dei Paschi meno 4,33. Ed ST Microelectronics meno 3,82. Peggior titolo Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 6,50. Poi Fiat Industrial meno 5,40. Male anche Fiat Auto meno 3,90%. Come sempre con Radio Core, il Sole 24 Ore. Il collegamento è l'onore Micheli. Buonasera. Buonasera. Partiamo dalla Popolare di Milano, perché è arrivata adesso una notizia che domani il presidente della Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, e Enzo Chiesa riceveranno il vice direttore generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, per esaminare lo stato dell'arte sull'aumento di capitale. Che cosa era successo? Erano circolate indiscrezioni, Leonora, che la Popolare di Milano stesse cercando di far slittare l'aumento di capitale. Esatto, è stato proprio il messaggero che questa mattina... Ah, scusami, chiesto dagli ispettori della Banca d'Italia, che quando andarono lì dissero, beh, insomma, il rapporto tra impieghi e capitale non ci siamo, dovete fare un aumento di capitale. Scusami l'interruzione. Il messaggero di questa mattina ha riportato l'indiscrezione secondo la quale si starebbe studiando un rinvio dell'aumento di capitale da 1,2 miliardi, del quale si parla peraltro da mesi, e pare che ieri ci sia stata una riunione tra il direttore generale Chiesa e le banche del consorzio di garanzia per valutare il da farsi dopo soprattutto i recenti scossoni che hanno penalizzato la borsa, ma soprattutto i titoli bancari. E a questo punto l'idea è che la stessa BPM sondi anche la possibilità di rinviare l'operazione, valutando ovviamente anche la posizione di Banca Italia. Vedremo domani che cosa succede. Sì, mentre c'è Matteo Arpe alle porte, no? Che vorrebbe entrare, ha detto, non si capisce, la cifra ancora ne sono dello 0,3% in su, però insomma si complica la situazione della Popolare di Milano. Vedremo appunto se domani i chiarimenti saranno soddisfacenti per la Banca d'Italia. Andiamo avanti con i titoli. Dicevamo, di nuovo pesante oggi il gruppo Fiat, Leonora. Esatto, Fiat e Fiat Industrial, meno 3,87 Fiat S.P.A., meno 5,4% Fiat Industrial, e peraltro i due titoli hanno trascinato al ribasso anche la holding della famiglia Agnelli Exor, che ha lasciato sul parterre il 6,5%. Del resto oggi sono andati male un po' tutti i titoli auto del vecchio continente, anche se non sono andati così male come i titoli Fiat, che ormai hanno accusato, diciamo, delle perdite veramente pesanti. Facendo i conti, da inizio luglio Fiat Industrial ha perso il 37% circa del proprio valore, ma soprattutto Fiat S.P.A. ha dimezzato il proprio valore. Ecco, visto che molti ce lo chiedono, cioè quanto ha perso la borsa da inizio luglio, da quando si è palesata la prima manovra, poi è arrivata la seconda d'agosto. Da inizio luglio Milano ha perso il 33% del suo valore, quindi l'incertezza sulla manovra economica e l'attacco che è arrivato dall'estero hanno pesato per il 33%, cioè si è ridotto di un terzo il valore di Piazza Affari. Siamo i primi in Europa, segue Francoforte meno 30%. E poi le altre borse, faccio notare Parigi meno 26, Londra meno 14, Madrid meno 24. Solo ad agosto, cioè solo nel mese d'agosto, Piazza Affari ha perso il 21% del suo valore. Traffico e poi gli altri titoli. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e Leonora Micheli. Oggi un paio di titoli buoni ci sono, però Luxottica, dicevo, più 2%, Palmalat più 1,5%, Enel Green Power più 1,12%, Atlantia più 0,70%. Tenaris più 0,60, Diasorin più 0,50, Tods più 0,40. sia Tod's che Luxottica vanno bene. E c'è un dato interessante sul settore moda e lusso. Esatto, infatti Luxottica più 1,98 come hai detto tu, Tod's più 0,40 hanno fatto bene sulla prospettiva che il settore della moda, nonostante risenta della crisi, continuerà a crescere. Proprio quest'oggi il presidente della Camera della Moda, Boselli, ha indicato che l'ipotesi, la stima è che il fatturato dell'intero sistema moda a fine 2011 crescerà del 4%. Certo, va detto che la stima rispetto solamente allo scorso giugno è stata praticamente dimezzata. A giugno si ipotizzava che la crescita del giro d'affari fosse dell'8%. D'altra parte, come ha sottolineato Boselli, si continua a parlare di crescita, mentre per altri settori già si ipotizza un'eventuale recessione. Grazie, grazie. Donna Michele, Radio Colle, sulle 24 ore vi do i migliori e peggiori in assoluto. Indesit sul risparmio, vabbè, più 7, F più 6,30, Zucchi più 4,76. I peggiori, Borgosesia meno 16%, Poltrone Frau meno 10%, Marcolin meno 10,4%, e poi Munich Re meno 8,20%. Altra notizia che oggi ha mosso i mercati valutari è stata questa decisione della Svizzera, che dice in sostanza basta, non vogliamo che il franco si apprezzi così tanto, quindi diventi così forte nei confronti dell'euro. Perché poi ci crea problemi, e insomma l'euro, così come gli Stati Uniti stanno scaricando sull'euro la debolezza americana e resta stabilmente a quota 1,40, l'Europa tra virgolette stava scaricando sul franco la debolezza sua, e la Svizzera ha detto adesso basta. Certo, non ha dichiarato guerra all'Europa, ma ha deciso di fissare a quota 1,20 il valore minimo del rapporto di cambio euro-dollaro. Se sarà più basso, l'euro chiaramente, interverrà la Banca Centrale Svizzera. Dottor Alessandro Capuano, responsabile IG Market Italia, buonasera. Sì, buonasera. Dunque, tecnicamente, questo cosa vuol dire? Che ogni volta che il rapporto di cambio euro-franco-svizzero andrà oltre quota 1,20, la Banca Centrale Svizzera opererà in automatico? Lei cosa ha capito? Me lo spieghi? Sì, sostanzialmente c'è da fare una premessa: la Banca Centrale Svizzera non è la prima volta, e negli ultimi due mesi è stata abbastanza attiva, e solitamente sono intervenuti sul mercato senza però poi rilasciare dichiarazioni su quelle che erano le attuali intenzioni. Adesso hanno semplicemente detto al mercato: lo abbiamo portato da 1,10 a 1,20, è stato un intervento poderoso in pochi minuti, quindi ha spazzato via parte della speculazione, e adesso ogni qualvolta il cambio dovesse andare sotto 1,20 noi saremo pronti a intervenire stampando moneta. Cioè hanno nel comunicato stampa hanno dichiarato con risorse illimitate, del resto loro possono stampare franchi, venderli e comprare con quei franchi stampati l'euro o il dollaro, certo, o altre valute. Questo è la loro intenzione, e francamente a nostro avviso era un qualcosa da fare, nel senso che una cosa è intervenire sul mercato e poi uscir via e non dichiarare alla speculazione, al mercato, le reali intenzioni, e una cosa è dire guarda che sotto 1,20 noi siamo pronti, tant'è vero che noi abbiamo visto una forte diminuzione di volumi scambiati subito dopo l'intervento della Banca Centrale, perché con un franco che rende l'1% andare a spostare liquidità da euro verso il franco e non poter neanche giocare sulle valute, quindi su un possibile apprezzamento, lo rende molto meno attraente rispetto a quello che era ieri. Secondo lei il motivo per cui la Svizzera ha operato in questo modo è che non vuole, diciamo, che si scarichi la debolezza dell'euro sulla sua valuta? È un paese esportatore anche la Svizzera, per carità, insomma, una decisione così non l'avevamo vista spesso. Sì, però dobbiamo anche considerare che questa era una valuta che pre-crisi viaggiava intorno a 1,50, 1,60. Il problema non è neanche tanto il valore assoluto, che sicuramente sta mettendo in difficoltà gli esportatori svizzeri, ma quanto la velocità con la quale il mercato si è portata su quei livelli. E l'altra cosa che andrei a considerare è che il franco, questo è un mercato che ha una sete, ha grossa fame di attività non rischiose. Ce ne siamo accorti in questi giorni. La Svizzera, ahimè, è tuttora uno dei posti preferiti, tripla A, basso surplus di bilancio, quindi tutti vanno lì. E questo sta creando problemi alle esportazioni. Il paradosso è che quello che poi abbiamo notato noi, parte di questa ricerca di paradisi non rischiosi potrebbe paradossalmente andare a incrementare lo spread tra Bund e BTP, potrebbe, e già l'abbiamo visto sul mercato delle valute, la corona norvegese e un altro paese AAA, abbiamo visto flussi di acquisto in aumento sulla corona tutti norvegese. Vogliono la corona norvegese. Questo è pazzesco. Perché è un'altra AAA. E non è l'euro, diciamo. Non è euro, ma è in zona euro, ha un'economia leggermente dipendente, è un po' dipendente dalle commodities, dalle materie prime, e il mercato si aspetta che con un'inflazione che salirà le commodities dovrebbero salire, è meno liquida del franco svizzero, ma al momento è una valida alternativa. E vai con la corona svedese. Mi dica un'ultima cosa, dottor Capuano, il rapporto di cambio euro-dollaro invece si è mosso molto poco in questi mesi, cioè si sono mossi tutti i mercati tranne quello euro-dollaro. Questo è perché la debolezza americana è simile, secondo lei, alla debolezza europea, quindi non si muove il rapporto di cambio? Mi dica solo se no. Sì, è una guerra da poveri. Tra poveri, perfetto. Basta. No, ho già capito. Perfetto, per cui tanto debole è l'Europa, tanto debole resta l'America, il rapporto di cambio resta invariato 1,40. Grazie a Alessandro Capuano, responsabile IG Market Italia. Adesso il GR e poi un'intervista sugli scenari economici al presidente dell'ENI e l'aggiornamento sulla manovra finanziaria. Minuti, seconda parte di Focus Economia. Adesso, prima di arrivare agli sviluppi, alle nuove versioni di questa manovra, attenzione però, vedo molti messaggi al 349-238-6666. Da quello che si è capito, il governo porrà la fiducia, quindi questa dovrebbe essere la versione definitiva della manovra finanziaria. Il condizionale d'obbligo, però dovrebbe essere la versione definitiva della manovra finanziaria. Vorrei farvi ascoltare che cosa ci ha raccontato nel fine settimana al workshop Ambrosetti e quindi a Cernobbio il presidente dell'ENI, da poco nominato, Giuseppe Recchi, che tra l'altro è un paese in cui i giovani spesso non sono presenti nelle massime cariche, è giovane, nel senso che ha 47 anni, e gli abbiamo chiesto, dalla prospettiva appunto di chi presiede il primo gruppo industriale italiano, un giudizio sul nostro paese e anche quanto è emerso a Cernobbio, speculazione dei mercati, speculazione corretta nei confronti dell'Italia, speculazione eccessiva nei confronti dell'Italia. Dal mio punto di vista c'è in corso una crisi di leadership in tutto il mondo occidentale che fa sì che certe misure o certe soluzioni a problemi che sono chiari per tutti non vengono prese con la sufficiente decisione e con la sufficiente prospettiva a lungo termine. Oggi in tutto il mondo occidentale la politica è come condannata a agire su strategie di minimo costo, comunque di breve termine, e non riesce a fare un salto di punto di vista per imporre quelle scelte dolorose che però hanno un effetto a lungo termine molto più sostanziale di quello che invece si riesce a fare così. La politica, non penso solo alla politica italiana, penso veramente alla politica internazionale, ha buoni propositi, poi deve fare i conti con una situazione contingente molto difficile obiettivamente, sono un po' finite le cartucce che i governi hanno potuto sparare nella prima crisi tra il 2007 e il 2009. Oggi i conti sono più difficili, la crescita è quella che veramente mina la capacità di intervenire. Poi i paesi che hanno debito più alto ovviamente hanno risorse più scarse. Per il nostro paese sono comunque ottimista, perché se noi facciamo dei ratio che tengono conto anche del risparmio, degli asset del paese, stiamo molto meglio di altri paesi, siamo stati virtuosi nel contenimento del deficit, per cui apparentemente i numeri sono grossi e fanno paura, ma pensi agli Stati Uniti, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale avevano un debito che era al 100% del loro GDP e dopo quel momento sono diventati una potenza economica mondiale. Sulla manovra italiana, venerdì la Commissione Europea ha detto attenzione, vi attendete un po' troppo dalle entrate fiscali dovute alla lotta all'evasione, sono più aleatorie e potenziali che reali. Che cosa non le è piaciuto della manovra o casomai della gestione della manovra? La manovra italiana, così come altre manovre, sono efficaci se danno una sensazione di capacità di intervento su quelle che sono le leve possibili di un paese. L'Italia ha tantissime leve possibili, ha leve di risparmio, ha leve di consolidamento di patrimonio, cioè è un paese ricco, per cui non è un paese in bancarotta come invece altri paesi nel mondo possono invece essere più vicini. Quello che è importante è che chi ha la leadership politica, chiunque sia, possa intervenire con rapidità efficace, che è un po' lo stesso tipo di intervento che si chiede ai manager di una grande azienda quando un'azienda ha bisogno di un turnaround. Secondo lei c'è stato questo intervento efficace, rapido? Purtroppo le parti che fanno parte della negoziazione sono sempre troppe, per cui la nostra governance ci impedisce di avere un decisionismo come invece nelle aziende c'è. Io non mi vorrei mettere nei panni di un politico, è molto più facile essere amministratore di un'azienda perché la governance è precisa, è verticistica e si riesce a intervenire secondo una linea. Purtroppo nella situazione di crisi il negoziato frammentato, continuo su ogni particolare non è efficiente né per la soluzione né per il messaggio di capacità di intervento che si dà. C'è qualche misura nello specifico, pensioni, IVA, che lei avrebbe visto con maggior favore oppure che l'ha lasciata delusa per l'assenza? Politico non è il mio mestiere, leggo dai giornali e so che insomma una delle grandi voci che mancano al nostro budget è quello dell'evasione fiscale. Da sempre, qualunque colore di politica se ne occupa, ma il nostro paese ancora purtroppo ha dei record negativi su questo campo. Io su questo non avrei nessuna remora a intervenire con qualunque tipo di azione forte. Una per tutta è eliminare o abbassare il più possibile il livello di cash che circola. Per me soglie addirittura più basse di 500 euro, anche io lo metterei anche a 100 euro. Viviamo in un mondo digitalizzato, tutti abbiamo il telefonino, quasi tutti hanno la carta di credito, facessimo transazioni tutte con carta di credito. Ecco, si è molto discusso del fatto che i ricchi paghino di più, quindi le soglie, il diretto non i 90.000, 150.000 euro indicati, ma addirittura una solidarietà per chi avesse patrimoni superiori a 1,5 milioni. Warren Buffett l'ha proposta in America, Montezemolo l'ha ripresa in Italia, Sarkozy l'ha tramutata in una forma di tassazione aggiuntiva per le fasce più alte. Lei su questo è d'accordo o secondo lei c'è molta demagogia? Il concetto di patrimoniale è un concetto che non scandalizza più nessuno, raccoglie il consenso di chi vuol partecipare alla soluzione di una crisi che è percepita da tutti. Quello che però tutti pongono come condizione è che di fronte a questo tipo di sacrificio ci sia d'altra parte un intervento sull'efficientamento del sistema, per cui la cosa peggiore sarebbe andare a erodere un altro pezzo di questa fetta della ricchezza che il paese è riuscito a costruire per poi spenderlo su spese pubbliche correnti inefficaci. Allora, se si fa un turnaround, come si fa in una grande azienda, si fa sull'efficientamento dei costi e si fa sull'efficientamento dei ricavi. Quindi sì, a patto che però poi vi sia un dimagrimento complessivo della macchina statale, quindi anche nella spesa corrente soprattutto, mi sembra di capire. Sì, dimagrimento non è necessariamente la parola, è efficientamento. Quando si fanno i turnaround non è che si mandano via per forza le persone, ma magari si rivedono i processi, si rivede come si spendono i soldi, si cerca di spendere per motivi che producono crescita e non che invece rimangono confinati a una mera spesa inutile. Veniamo a Robin Hood Tax, quella che colpisce sostanzialmente i gruppi energetici. Il timore, lo ha espresso anche la Corte dei Conti, è che da un lato questo riduca gli investimenti, voi ne siete coinvolti come Eni, sul territorio da un lato, oppure venga scaricata sul cliente finale, cioè su noi tutti, in questo caso quando facciamo benzina, nonostante il ruolo dell'autority. Lei teme che questo sia poi un dato di fatto più che un'ipotesi? Ma sono due argomenti totalmente diversi. C'è l'effetto sugli investimenti, è un effetto di cui deve tener conto chi introduce le tasse, il legislatore, che immagino faccia il piano tenendo conto dei costi e benefici. Poi la coperta è sempre quello: a volte si aumentano le tasse e diminuisce il beneficio indotto dalla spesa, o invece si diminuiscono le tasse e si aumenta la capacità di spesa e quindi il beneficio indotto. Quello che è l'effetto sulla nostra società riguarda in particolare una nostra partecipata che è Snam Rete Gas. Il management operativo ha comunicato al mercato quelle che saranno le previsioni di costo, nell'ordine di 150 milioni sull'utile netto di Snam Rete Gas. E ricordo però che Snam Rete Gas è una società che è soggetta all'unbundling, cioè è separata da noi nella sua gestione, per cui Eni, gruppo, non ha possibilità di intervenire su quelle che sono il prezzo del suo prodotto, che tra l'altro è regolato dal regolatore. Per cui questa Robin Tax interverrà su trasmissione e distribuzione del gas, che sono due campi regolati, per cui la tariffa dipende dal regolatore. Così Giuseppe Recchi, presidente dell'Eni, questo fine settimana al workshop Ambrosetti di Cernobbio. Due note: la prima, io l'ho definito giovane perché ha 47 anni, ebbene sì, in questo paese uno a 47 anni è giovane. L'altra invece più seria, mi ha molto sorpreso sentire dire una cosa che obiettivamente è passata sotto traccia. Quando ospitammo sette, otto mesi fa, l'economista Innocenzo Cipolletta, che disse insomma, bisogna pensare a una tassa patrimoniale, venemmo sommersi da sms, insulti. Non vi dico, mi sembra che, come diceva anche Recchi, ormai l'ipotesi estrema, ma nemmeno tanto estrema perché da più parti ventilata, di un ricorso alla patrimoniale sia oggettivamente diventata non più un tabù ma un oggetto di discussione. Non c'è la patrimoniale, e questo è poco ma sicuro, nelle nuove modifiche alla legge finanziaria. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Mi senti, Guido? Io ti sento. Eccoci, sì. Perché in collegamento ai nostri studi di Roma. Dicevo, dopo il traffico analizzeremo le novità intercorse. Da quello che ho capito, essendoci la fiducia, dovrebbe essere la versione ultima. Chiaro che vorrei anche un commento su come siamo arrivati a questo tira e molla continuo. 349-238-6666 per i vostri sms. Traffico. Allora, mentre abbiamo anche il dato a questo punto di quanti sono gli italiani che dichiarino più di 500.000 euro lordi all'anno, il contributo sarà del 3%, sono 11.000 i contribuenti italiani che guadagnano più di mezzo milione di euro all'anno, e visto che il contributo è del 3%, il calcolo è facile: varrà 35 milioni di euro nel 2012, 35 milioni di euro e 87 milioni dal 2013, quindi a regime. Sarà anche deducibile, è chiaro che con queste cifre è un contributo, diciamo così, simbolico, corretto, giusto, ma non cambia i saldi finali. Vincenzo Miglietta, prima di sentire Guido Gentili, gli ultimi aggiornamenti. Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera. Stiamo aspettando il Consiglio dei Ministri, certo, che darà il via libera alla fiducia sul decreto della manovra economica. Stiamo aspettando il nuovo testo, il nuovo maxi emendamento del governo, che contiene le anticipazioni che hai dato prima da studio. Ricordiamo che però, per dare idea di che momento si sta vivendo qui in Parlamento, intanto in aula al Senato è iniziata la discussione sulla manovra, ma sul testo licenziato domenica sera dalla Commissione Bilancio. Quindi questo per dare un po' l'idea dell'incertezza che si sta vivendo. Cioè, stanno discutendo in Senato il testo della manovra che non è più quello. Assolutamente. Ma non facevano meglio andare alla buvetta a sto punto, al ristorante, visto che i prezzi non li hanno ancora modificati? Sì. Non lo so, cioè, che senso ha discutere una manovra che non è più quella? Adesso magari ce lo spiega Guido Gentili, comunque, l'aumento dell'IVA dal 20 al 21% me lo confermi stando alle indiscrezioni? L'aumento è confermato dal 20 al 21%, addirittura potrebbero aumentare anche le altre due aliquote, attualmente al 4 e al 10%, quindi in serata potrebbero essere introdotte anche queste quindi due quindi dal 4 variazioni. Al 5 in un caso, dal 10 all'11 nell'altro? Da quello che si è capito. È così. E la cosa importante da ricordare è che per quanto riguarda l'aumento dal 20 al 21% dovrebbe essere un aumento definitivo e non più fissato nel tempo, si era parlato di soli 3 mesi per questo aumento. Quindi avrebbe scatenato una ridda di ipotesi. Dimmi. Sì, il gettito in questo caso invece sarebbe corposo, si parlerebbe di 6 miliardi di euro. 6 miliardi di euro dall'aumento dell'IVA. E poi l'adeguamento delle pensioni delle donne nel privato dal 2014 e abbiamo capito ci sarà anche in Consiglio dei Ministri la legge costituzionale per lo stop, per la chiusura delle province? Sì, è così, questo è sul Consiglio dei Ministri però di giovedì, quindi disegno di legge costituzionale, le competenze delle province passerebbero alle regioni e poi sarebbe introdotta la regola d'oro del pareggio di bilancio in Costituzione. Allora sì, comunque essendo una legge costituzionale i tempi sono lunghi, grazie Vincenzo Miglietta. Allora Guido, a parte il fatto che, ripeto, è un atto simbolico dovuto come esempio, ma insomma dal 3% sui redditi con più di 500.000 di euro arriveranno in totale 35 milioni di euro quest'anno e 87 milioni l'anno prossimo a regime. Alla fine sull'IVA si è tornati alla versione ipotizzata inizialmente, non ti fa un po' specie che il Senato stia discutendo una vecchia versione della manovra? Ma sì, però mi fa specie da un lato e dall'altro però mi conferma quella che è la situazione che abbiamo vissuto negli ultimi 2 mesi, cioè di confusione assoluta, di misure che vivono, muoiono e risuscitano nell'arco di poche ore e questo diciamo... Misure Lazzaro, diciamo. Sì, esatto, e quindi non mi meraviglia che adesso stiano discutendo un qualcosa che viene sostituito tra un'ora e mezzo da un maxi emendamento, insomma mi pare che faccia parte ormai della regola del gioco. Col senno di poi bisognava mettere la fiducia subito? Ma probabilmente sì, difatti c'era stato anche chi aveva detto anche nell'opposizione, dice ci ripenseranno con ogni probabilità e metteranno la fiducia, cosa che è avvenuta ovviamente dovendo, diciamo, essendosi messi nelle condizioni di rincorrere, diciamo, quella che è la situazione sui mercati e non cercando, diciamo, di aggredirla preventivamente con una manovra più incisiva e coraggiosa, quindi rincorrendo di giorno in giorno e con delle misure quello che succede sui mercati, e capita poi anche questo, che poi si debba rimettere mano anche al metodo e quindi andare a un voto di fiducia perché non c'è più tempo per alcun confronto in Parlamento. Ma alla fine c'è stato un incontro ieri tra Tremonti e la Lega ha rappresentato, ha avuto un ruolo cruciale a mio avviso anche nel rendere questa manovra una specie di elastico che appunto si estendeva, si stringeva. Il risultato finale di oggi è comunque l'aver portato la Lega a miti consigli, diciamo così. Ma mi sembra, diciamo, da questo punto di vista un risultato parziale, nel senso che il no della Lega continua a essere sulle pensioni. Sulle pensioni continua ad essere un no molto radicato e molto duro. L'aggiustamento che è stato previsto adesso con l'inizio del percorso di parificazione al 2014 per il settore delle donne nel privato, beh, insomma, dico, è poca cosa, non è che parliamo di una riforma strutturale. Come dicevi anche tu prima, il contributo di solidarietà previsto per i redditi sopra i 500 milioni porta pochissimo, quindi tranne l'aumento dell'IVA, che tra l'altro non serve in chiave procrescita come si auspicava fino a un mese fa, ma serve semplicemente a rendere un pochino più stabili le coperture finanziarie di questa manovra e i famosi saldi invariati, non c'è molto di più, insomma è stato fatto il minimo sindacale, direi. Allora proviamo a fare una classifica, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666, le stime che vi ho letto sono le stime diffuse dal Ministero, cioè ci si attende da dare il contributo del 3% per i redditi sopra i 500.000 euro, 88 milioni di euro a regime, 35 milioni di euro nel 2012, queste sono le cifre che abbiamo letto, immagino che sia la media tra chi ne guadagna 510.000 e chi ne guadagna 800.000, ma insomma se dovessimo fare una classifica, oggi su Sole 24 Ore il direttore Roberto Napoletano criticava in maniera abbastanza esplicita anche l'intervento del ministro Tremonti a Chernobyl, come dire, si è messo a parlare a livello accademico quando tutti i mercati e gli operatori vogliono sapere qual è la credibilità del dell'Italia. Secondo te chi ne esce più indebolito è Stato Tremonti? Beh, certo, non esce benissimo Tremonti, non esce benissimo nel complesso anche il governo, perché ripeto, la sensazione che dà ai mercati, oggi ci siamo dovuti anche, diciamo, abbiamo dovuto sopportare anche il richiamo della Spagna. Sì, ne ho parlato in maniera un po' caustica, insomma, esatto, il bue e l'asino li conosciamo. Ecco, ecco, voglio dire, quindi, però c'è un punto, coglie un punto di verità, che è appunto sul piano della credibilità, noi abbiamo difettato moltissimo. Quindi, più della Spagna, certo. Certo, più della Spagna, più del Portogallo, e quindi ogni giorno rincorriamo i mercati, e quindi domani altro giorno e altra corsa. E su questo però possiamo anche dire che si è sentita l'assenza, oddio, l'opposizione fa l'opposizione, non governa, e quindi in questo momento la responsabilità è del governo, punto e basta. Però insomma, la Spagna può presentarsi sui mercati con una credibilità più alta dell'Italia non solo perché Zapatero ha detto non mi ricandido, andiamo alle elezioni, ma anche perché la manovra finanziaria l'hanno fatta governo e opposizione. E certo, e questo è un altro punto che ci distingue in peggio, diciamo, dagli altri paesi, senza dubbio. Non a caso il Presidente della Repubblica Napolitano ha insistito molto in queste settimane su questo punto, richiamando al cosiddetto metodo della coesione. Poi però, quando si va a vedere, i risultati sono assai scarsi. Magari si raggiunge un accordo bipartisan, come è stato fatto nei giorni scorsi in Commissione Bilancio, per ridurre l'impatto della misura che riguardava i ponti delle festività, ma non si va oltre quello, o qualche cosa di generico sulla spending review, ma insomma, poi quando si tratta di parlare di pensioni saltano fuori tutti no, diciamo, bipartisan. Allora, tu hai fatto notare come, insomma, ne esca indebolito Tremonti, l'intero governo, e poi anche l'opposizione non è riuscita, diciamo, a proporre un qualcosa, un tavolo su cui discutere. Sì. Chi ne esce vincitore? Chi è? Mario Draghi, Mario Monti e il Presidente della Repubblica Napolitano? Ma vincitore è una parola forte, insomma, chi ne esce come riferimento? Ecco, scusi, ma vincitore non esce nessuno. Ma certo, come riferimento rimane quello del Presidente della Repubblica, che, diciamo, instaccabilmente nelle ultime settimane ha costretto in qualche modo un po' le forze politiche, le parti sociali, a discutere nel merito dei provvedimenti. Certamente Draghi, nella doppia veste di governatore della Banca d'Italia e di presidente designato della Banca Centrale Europea, e quindi, diciamo, ha svolto un ruolo importante anche nel momento in cui si è proposto, diciamo, lo scambio tra l'anticipo del pareggio di bilancio richiestoci dalla Banca Centrale Europea e l'acquisto da parte della stessa BCE di titoli italiani sul mercato. Quindi credo che lì abbia svolto un ruolo fondamentale Draghi. Guido Gentili, spero di non sentirti più sulla manovra, nel senso che lo spero anche per il paese, e cioè che quella con la fiducia che dovrebbe essere scontata, a questo punto non vi saranno più modifiche. Grazie intanto all'editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Brisoni veramente tutto. Vi lascio alla nostra programmazione, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.